nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 settembre, il sole in regione sorto alle 6.47 tramonterà alle 19.16, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. I titoli. Il furto delle mele sperimentali all'azienda universitaria Servadei di Udine è un danno per una ricerca iniziata 15 anni fa. Per le storie oggi Angelo Floramo ci propone un'esperienza sensoriale unica con rimandi alla costruzione della nostra identità contadina. Dormire una notte in una vigna dove si sta vendemmiando. Come farci aiutare dalla carta dei vini dei ristoranti per l'abbinamento con il cibo nella rubrica dei sommelier. Prime tappe di avvicinamento per conservare a casa i prodotti che trasformiamo. La scelta, cura e gestione dei vasetti. Le settembrine, una margherita di stagione, facile da coltivare, che impreziosisce in questi giorni i nostri parchi e giardini. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsione del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. In apertura il furto all'azienda agraria universitaria Servadei di Udine, dove sono state rubate mele. Ma che mele? Mele sperimentali, frutto di un lavoro di 15 anni di selezione. Ce ne parla il professor Raffaele Testolin. Settembre, tempo di mele e tempo di furti di mele. Il telegiornale regionale ha dato ampio risalto nei giorni scorsi al furto di mele presso l'azienda agraria dell'università. Non mele qualsiasi, ma mele nuove frutto di un lungo programma di incroci e selezione. Vita nei Campi ci ha chiesto a questo punto di raccontare il progetto. Voglio permettere che un programma di incrocio e selezione nelle specie da frutto dura una quindicina di anni. Ogni qualvolta abbiamo iniziato programmi del genere all'Università di Udine, abbiamo evitato di fare annunci, rimandando tutto alla fine del programma stesso, quando avevamo in mano i risultati. L'abbiamo fatto per le varietà di kiwi, l'abbiamo fatto per le varietà di vite resistenti alle malattie, volevamo farlo anche per il melo. Purtroppo il furto delle mele nelle piante in selezione presso l'azienda agraria dell'università ci costringe a venire allo scoperto. Ecco allora qualche informazione flash sul programma, ricordando innanzitutto le ragioni del progetto. Il melo è vittima di alcune gravi malattie che richiedono trattamenti fungicidi e insetticidi. Solo per il controllo della ticchiolatura, la principale delle malattie fungine, sono necessari 15-20 trattamenti l'anno. Lo sanno bene i frutticoltori di professione. Il programma è iniziato nel 2008 con un piano di 150 incroci controllati tra varietà commerciali, vecchie e nuove, e alcune selezioni con geni di resistenza alle principali malattie del melo, recuperate presso diversi istituti di ricerca, in particolare l'Università di Bologna. Ricercatori e studenti intesi hanno lavorato 3 anni per completare il piano di incroci. Abbiamo seminato, allevato e controllato 8.000 piante ottenute da incrocio, abbiamo ottenuto quelle resistenti circa 2.000 e tra queste abbiamo scelto 75 selezioni che presentavano alle prime osservazioni buona produttività e buone caratteristiche dei frutti. Le abbiamo innestate, messe a dimora su 3 file e le stavamo valutando da alcuni anni. La sera tra il venerdì e il sabato di questo settembre 2023 dei ladri sono arrivati dall'azienda sanitaria di Via Pozzuolo, hanno tagliato la rete di recinzione che separa l'azienda sanitaria dall'azienda agraria dell'università e sono entrati esattamente nei filari dove c'erano le selezioni. Hanno raccolto cassette di frutti, spogliato gli alberi e se ne sono andati. Che dire? Abbiamo perso un anno di valutazione. Per fortuna le piante sono ancora lì e continueremo nel 2024 con le osservazioni, sperando con un po' di fortuna, che visti i fatti sembra proprio necessaria, di poter mettere a disposizione degli agricoltori qualcuna di queste selezioni. Resta il rammarico per la rozzezza del fatto. Rubare mele è un atto deplorevole. Rubarle in un'azienda sperimentale senza sapere il valore di quanto si porta via è un gesto che non può essere giustificato da fame o necessità di qualche euro. È solo un comportamento indegno. Dormire una notte in vigna, dove in questi giorni si sta raccogliendo l'uva, è l'esperienza sensoriale ed evocativa che ci propone oggi Angelo Floramo con una delle sue storie. Addormentarsi tra i filari di una vigna antica, nel tempo che precede immediatamente la vendemmia, è una di quelle emozioni profonde che dovremmo poterci regalare, almeno una volta nella vita, prima che l'artrosi intervenga a convertirci a più miti consigli. Le campagne, nel momento in cui la stagione volge alla sua maturazione, sanno infatti restituire un ventaglio di sensazioni percettive, capaci di risvegliare dal nostro profondo memorie che appartenevano un tempo ai nostri antenati contadini e che purtroppo la quotidianità della vita, matta e disperata, sempre più liquida e virtuale, tende a farci dimenticare. Un'esperienza così andrebbe suggerita alle scuole, incentivando a quella ricerca della bellezza che talvolta si apre appena fuori la porta d'ingresso delle aule. A settembre inoltrato, la terra ha offerto con generosità tutti i suoi succhi, che ormai sono diventati polpa e sapore. Basta l'umidità della sera per far salire aliti tiepidi e selvatici, appena addomesticati dagli ultimi sfalci. Sarà come accoccolarsi sul ventre di una dea. Il sole ha ormai maturato i suoi grappoli, che sembrano esplodere di luce tra il fogliame, mentre prende a colorarsi di gialli e di rossi, così intensi da sembrare macchie accese cadute qua e là tra il verde dei filari. Il consiglio è quello di perdersi nei loro labirinti sul far della sera, quando ancora si percepisce con nitidezza il profilo del mondo e delle cose. Una copertina, la più umile che avete in casa, basterà alla bisogna per proteggersi dal contatto diretto con il suolo. E magari un cestino di vimini, in cui riporre con cura qualche conforto per la nottata che sarà, lo assicuro per esperienza, capace di regalare meraviglie e inaspettate sorprese. Qualche scaglia di formaggio vecchio, latteria di pasta densa e gialla che sappia di fieno, un salame che ha conosciuto la sapienza del camarin e ne ha assorbito tutti i profumi terrosi, un uovo sodo magari, e per i più fortunati qualche fetta di polenta arrostita. Facile, a fine pasto, allungare una mano e baciare qualche acino, lasciando che scoppietti in bocca con la freschezza che già promette tutta l'anima del vino. E a tale proposito il consiglio è quello di asciugare in buona compagnia qualche bottiglia di quello buono, meglio se nasce da quegli stessi legni che a breve veglieranno sui vostri sonni. Anche se sarà difficile addormentarsi, perché le ore scivoleranno veloci sotto un cielo che saprà riempire di stupore i sogni sotto le vostre ciglia. La carta dei vini come utile guida all'abbinamento vino-cibo è l'argomento che ci tratta oggi Vladimiro Tulisso per la rubrica dei sommelier. Abbiamo imparato a muoverci tra le pagine della carta dei vini e anche compreso che è molto utile chiederla in ristorante. È ormai chiaro che la carta riunisce i vini per sezioni, spumanti, bianchi, rosati, rossi e dolci. Ma questa suddivisione è solo una convenzione, non rappresenta affatto la sequenza con cui i vini vanno consumati. Vi faccio un esempio. In una recente cena di gala per il compleanno di un consorzio friulano di tutela dei vini, i due più importanti chef della nostra regione, entrambi bistellati Michelin, hanno felicemente proposto due vini dolci, il Picolit e il Ramandolo, in coda nella carta dei vini, per abbinarli a un antipasto di pesce crudo, mentre un Pignolo, vino rosso particolarmente robusto, ha accompagnato il dolce. Questo dovrebbe convincerci che gli abbinamenti più riusciti sono quelli che arrivano dalla sperimentazione. Non è semplice, ma questo non deve impedirci di provarci. Quindi ripassiamo le regole principali dell'abbinamento. Essendo un rappresentante dell'AIS, mi rifarò alle regole didattiche dell'Associazione Italiana Sommelier. Le norme base non sono molte. Acidità e tannino, le parti dure del vino, si adattano a un cibo untuoso o grasso. Alcol e glicerina, le parti morbide del sorso, amano confrontarsi con il piccante e le spezie. Sono entrambi esempi di abbinamento per contrapposizione. E questa è la condizione più frequente, perché la maggior parte delle sensazioni percepite in un cibo richiedono nel vino la sensazione opposta. Importante non trascurare la struttura di un piatto per allinearla a quella del vino. Un cibo dal sapore intenso richiederà un vino con un sorso robusto. Lo stesso accadrà con la persistenza del sapore, elemento determinante nell'abbinamento. Un boccone che si fa ricordare dopo la deglutizione, a lungo, 5, 10, 15 secondi, andrà onorato con un vino dal gusto altrettanto persistente. Piccole attenzioni per divertirsi a tavola, ricordando che il vino non dovrà arrendersi al cibo, ma nemmeno invadere il campo e diventare protagonista. Michela Urbano, che ci cura la rubrica della conservazione e trasformazione dei cibi, oggi comincia a mettere i ferri in acqua e ci parla di uno degli strumenti strategici di queste arti, ovvero i vasetti, come curarli e gestirli. Chi ben comincia è a metà dell'opera, recita un noto adagio. Ho pensato quindi di aprire assieme a voi le ante della nostra dispensa e rispolverare l'ABC di ciò che l'arte della conservazione esige. Un buon inizio è quello di assicurarci che le nostre provviste siano locate in una stanza asciutta e fresca, al riparo dalla luce. Armiamoci di buona volontà e all'unisono diamo il via alla selezione dei vasetti. Ebbene, è giunto il momento di scartare tutto ciò che è sbeccato, rovinato e non congruo. A questo punto potremmo stilare una lista degli accessori mancanti e procedere all'acquisto di barattoli nuovi, assortiti, con chiusura a vite oppure a scatto, a seconda della necessità, guarnizioni, pressini ed etichette. Ogni prodotto conservato merita il giusto contenitore. I peperoncini ripieni sott'olio hanno esigenze diverse dalle confetture, così pure gli asparagi dalle melanzane, per riportarvi qualche esempio pratico. Utilizzare il contenitore ideale per ogni provvista non solo ci semplifica il lavoro durante il confezionamento, ma valorizzerà il prodotto all'atto del consumo. Personalizziamo dunque le nostre scorte, programmando per tempo il nostro agire. Non vi è nulla di più fastidioso che trovarsi impreparati all'occorrenza. Laviamo accuratamente i barattoli vuoti con un detersivo neutro e facciamoli asciugare molto bene prima di riporli. Ciò eviterà lo sviluppo di muffe e batteri. Io procedo con la sterilizzazione a vuoto solamente un attimo prima di utilizzarli. Il vetro è senza dubbio il prodotto migliore in cui conservare. Non altera l'odore, è igienico, riciclabile e non rilascia sostanze nocive nei cibi. Quindi in esso potremmo stivare anche legumi, la frutta secca, il riso, la pasta essiccata, la farina e le erbe aromatiche. Ricordiamoci che una dispensa ordinata prevede anche un uso appropriato di etichette sulle quali scrivere la data di confezionamento, il nome del prodotto e qualche nota aggiuntiva all'occorrenza. In commercio da qualche anno si trovano etichette e adesivi di ogni sorta, semplici oppure sfiziosi, ma a mio parere le più belle rimangono quelle scritte a mano, soprattutto se destinate a un regalo. Aster o Astro, alias Settembrine, una margherita per l'autunno, è il titolo del contributo di oggi di Alessandro Squizzato per la rubrica dei fiori. L'aster è una pianta da esterno, originaria sia dei paesi asiatici che mediterranei, appartenente alla famiglia delle asteracee. Il genere comprende moltissime specie di piante erbacee perenni, diverse fra loro per altezza, dimensioni e colori dei fiori. Tutte le specie sono adatte all'utilizzo in giardino e ottime per le bordure. Le varietà di astro che troviamo maggiormente è la Novi Belgi, pianta erbacea perenne che sviluppa un cespuglio che può raggiungere 90 cm di altezza ed altrettanti di larghezza. Ha foglie lanceolate e acuminate. I fiori sono a margherita, semplici o doppi, con numerosissimi petali. I colori sono vivaci e forti, con tonalità che di solito vanno dal rosa al lilla, sebbene esistano anche varietà a fiore bianco con il centro giallo. Ogni pianta produce innumerevoli fiori, di dimensioni medie. Settembre è il mese principale della sua fioritura, e per tale motivo questa specie viene chiamata anche settembrino. Si adatta bene alla mezz'ombra e al pieno sole. Sono abbastanza rustici e si adeguano ad ogni tipo di suolo, preferendo tuttavia quelli freschi e leggeri, fertili e ben drenati. Se li volete allevare in vaso, usate del terriccio universale di buona qualità. Le piante vanno annaffiate regolarmente da marzo ad ottobre a terreno asciutto, evitando i ristagni. La concimazione dovrà essere fatta una volta ogni 10 giorni con del concime per piante da fiore, nell'acqua di irrigazione. Un'operazione utile, specialmente per le varietà più alte, è quella di disporre un tutore e legare la pianta via via durante il suo sviluppo. Asportiamo i fiori man mano che appassiscono, per avere così una fioritura più prolungata. Dopo il termine della fioritura, le piante vanno recise a pochi centimetri dal terreno. Nelle zone con inverni rigidi, la parte aerea si secca, per ricominciare a svilupparsi a partire dalla primavera inoltrata. Ogni anno, quando rivegeta, raggiunge una crescita maggiore di quella dell'anno precedente. Gli aster sono preziosi anche per la tutela della biodiversità. I fiori sono apprezzati dalle api, per le quali sono una fonte nutritiva prima del riposo nella stagione invernale. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Venerdì scorso, nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 20,30 e 20,60 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,70 e 22,20, l'orzo per lo specifico 62,65 tra 17,70 e 18,20. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 11,50 euro il quintale e il frumento di 13,40 euro. Fiacche le contrattazioni al trofoticolo di Udine con prezzi leggermente in rialzo. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate da 1,80 a 2 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine da 1,20 a 1,40, i cetrioli da 1,60 a 1,80, i finocchi da 1,80 a 2 euro, le melanzane tonde da 1,50 a 1,80, i cavoli tra 2 e 2,20, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2 e 2,30, i pomodori in grappolo olandesi tra 1,60 a 1,80, il ricco rosso tondo da 3 a 3,50, quello di Treviso da 3,50 a 4 euro, le arance estere da 1,50 a 1,80, i meloni da 1,50 a 2 euro, le angurie da 0,80 a 1 euro, le pesche e pesche noci da 1,60 a 2 euro e l'uva italiana da 2,30 a 2,80. Nel settore della pesca è ripresa l'attività anche in mare e per le condizioni meteo favorevoli i prezzi sono in leggero calo. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli e medi grandi sono quotati da 18 a 32 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 10 a 20, le sogliole da 8 a 25, le canocce da 5 a 11, le passere da 10 a 15, i latterini da 7 a 9, mazzancolle da 13 a 20, le capesante da 20 a 23, le seppie da 8 a 16. I calamari da 15 a 20, le lecce da 8 a 15 e il pesce serra da 7 a 12 euro il chilo. Prezzi riflessivi nel comparto dei foraggi, con un lieve calo dell'Alba America che viene quotata tra 21 e 22 euro il quintale IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 12 e 13 euro e la paglia di cereali pressata si quota da 8 a 10 euro il quintale. Infine, ancora accenni di pesantezza con prezzi diversificati nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poliatera varia da 1,46 a 1,48 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, i tacchini maschi da 1,65 a 1,67, i conigli oltre 2,5 kg da 2,79 a 2,85, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 18 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Settembre finora si è presentato con caratteristiche ancora decisamente estive. Le temperature medie negli ultimi 10 giorni sono state di 2,5 gradi sopra la norma su pianura e costa, e sui monti in quota l'anomalia è stata ancora più marcata, con ben 4,6 gradi sopra la media, facendo riferimento ai dati registrati sulla vetta del monte Zoncolan in Carnia a 1750 metri di quota. I valori medi giornalieri di oltre 17 gradi, osservati il 10 e l'11 settembre, rappresentano per questo periodo un nuovo record, valori che sarebbero di per sé già elevati nel cuore dell'estate. Anche le temperature massime del monte Zoncolan, che hanno toccato i 21,6 gradi nelle stesse giornate, disegnano dei nuovi record in quota, mentre su pianura e costa, complice una moderata inversione termica nei bassi strati, l'anomalia, pur importante, non ha causato nuovi record. L'anticiclone di origine africana presente sull'Italia oggi provocherà maggiore ristagno di umidità negli strati medio-bassi, con cielo variabile. Domani invece arriverà in serata un fronte atlantico, preceduto da correnti sud-occidentali in quota e da moderato sirocco sul mare. Aumenterà l'instabilità e dal pomeriggio sera fino alla mattina di martedì saranno molto probabili su tutte le zone temporali con piogge anche abbondanti, forse anche localmente intense sulla pianura e sulla fascia prealpina. Martedì in giornata lieve miglioramento, ma saranno ancora possibili rovesci e qualche temporale. Mercoledì e giovedì saranno due giornate con cielo da poco nuvoloso a variabile. Saranno possibili dei locali rovesci, specie sulla fascia prealpina, non del tutto esclusi però anche sulle altre zone. Venerdì e parte della giornata di sabato è probabile che l'ingresso di una saccatura depressionaria atlantica porti un nuovo peggioramento, con piogge temporalesche anche abbondanti, ma come sempre sarà opportuno seguire gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni. Le temperature caleranno solo di qualche grado, con massime previste fra 24 e 26 gradi per gran parte della settimana. Rimarranno quindi al di sopra della media del periodo, ancora alta pure la temperatura del mare con valori fra 24 e 25 gradi. Anche le previsioni a medio termine per la terza decade di settembre, al momento, continuano ad indicare temperature al di sopra della media, con valori più tipici dell'estate piuttosto che autunnali. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi a un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Mattie, lo zelador al saltempie, ovvero per il giorno di San Matteo, il 21 settembre, l'uccellatore salta in piedi, o meglio si allerta, visto che inizia il passo dei migratori. Coordinamento tecnico di Daniela Posti, il nostro indirizzo mail vita nei campi @rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montaldo Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.